Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Non ci fermammo, ma anche chi sa. Non sono solo a ricordarsi, ci siamo tutti a ricordarci. Quindi non vedi che cosa mi costa? A me, no, ma a me non mi costa niente. E allora camminiamo. E con me non vengo pavato da nessuno, io lo faccio di culo. E allora camminiamo. E lo faccio con lo scritto. E ce lo fotte i battifreddi. Camminiamo e proseguiamo. Per la fermata non è storica. Proseguiamo. Ma è una cosa che non si fa da anni. Perché stanno a fermare sotto casa di lavoro? Io il santo e io non mi fermo sotto casa di lavoro. Ma è una chiesa, signor sindaco. Noi ci fermiamo per il santo, così che... Eminenza, lei lo sa come viene letta questa cosa? Lei lo sa come viene letta e come si rafforza il ruolo di quel personaggio? Sindaco, noi a Genova abbiamo la camorra vive di questo, Eminenza, se lo lasci dire, la camorra vive di questi simboli anche. Cari radioascoltatori, buongiorno. Quelle che avete ascoltato, secondo me è una testimonianza splendida, cioè è la testimonianza di come gli amministratori del Sud, quando hanno le palle, lasciatemelo dire, sono volgare, non me ne frega assolutamente nulla, riescono a dimostrare che il Sud ha una faccia che è diversa da quella che si vuole dipingere. Noi abbiamo ascoltato, attenzione, da una parte la voce del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, che diceva: caro monsignore, non ci fermiamo sotto la casa del camorrista, andiamo avanti con la processione del santo. E dall'altra parte monsignor Felice Cece, che insomma titubava. E abbiamo sentito la voce del sindaco Bobbio che diceva: voi sapete come viene letta questa cosa, noi non ci dobbiamo fermare sotto la casa di quel personaggio, che poi questo personaggio sarebbe Renato Raffone, boss della camorra, attualmente agli arresti domiciliari. E noi abbiamo oggi il piacere di avere con noi in trasmissione ospite proprio il sindaco di Castellammare di Stabio, Bobbio. Buongiorno Bobbio. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, adesso parleremo con Bobbio, ma ovviamente noi abbiamo sentito, abbiamo chiamato anche monsignor Cece perché volevamo metterlo a confronto su questo episodio, secondo me gravissimo, con il sindaco di Castellammare di Stabia. Ebbene, vi leggo la risposta testuale che ci è stata data dalla segreteria: vi ringraziamo per l'informazione, ma siamo occupati. Evidentemente hanno temi migliori di cui parlare, a cui pensare, che non quelli di cui noi oggi parliamo con Bobbio. Allora, Bobbio, come è stato preso dalla sua cittadinanza, dalla sua collettività amministrata? Ricordiamo che Castellammare di Stabia è un comune enorme, quando lei ha deciso con un gesto che io trovo straordinario di passare oltre con la statua del santo. Devo dire, ne cito solo un dato: in 3 giorni sul mio profilo Facebook ho ricevuto 2500 contatti, gran parte da parte di cittadini, ma ho ricevuto mail, contatti e messaggi un po' da tutta Italia, e devo dire un po' mi sono sorpreso, perché poi per me quella era assolutamente la normalità, cioè il mio comportamento ritengo debba essere un comportamento normale. Devo dire, io sono così, io sono stato magistrato, peraltro la mia storia in DDA, in direzione settore antimafia a Napoli, per 15 anni, però a me piace dire spesso che io non sono così perché sono stato magistrato, ma sono stato magistrato perché sono così, nel senso che io ci credo, ci ho sempre creduto, e ritengo che ogni istituzione, adesso sono sindaco, debba fare la sua parte nel contrasto alla criminalità, e guai se viene meno una sola delle tante istituzioni che sono chiamate a mettere un tassello nel muro, una pietra nel muro che bisogna erigere contro. Assolutamente, come io amo ripetere ormai da anni, noi siamo un tassello, noi come Radio 24 e questa trasmissione siamo un tassello di legalità anche noi. Ecco, ma secondo lei, ci sarebbe tanto piaciuto avere la voce di Monsignor Cece, ma secondo lei perché la Chiesa ha avuto questa stop improvviso, non soltanto metaforico ma proprio anche reale, visto che ci si è soffermati un po' troppo lì davanti? Che cosa non spinge la Chiesa ad avere più coraggio? E sto parlando in termini generali, ovviamente. Ma io peraltro mi piace precisare che, anzi mi dispiace precisare che la statua, poi il vescovo ha consentito che si fermasse sotto quel balcone. Io a quel punto avevo già precauzionalmente di fatto distanziare il gonfalone, mi ero distanziato io stesso, siamo usciti dal corteo, io mi sono dalla fascia e il gonfalone, e siamo rientrati quando, rispetto ai devoti, alla città e al santo, quando il corteo è ripartito. Quello che mi dispiace è la vita, la più grande del delusione l'ho avuta proprio dall'atteggiamento del vescovo. Non me l'aspettavo, non mi aspettavo un comportamento del genere, un comportamento, non lo vorrei dire con offesa, ma credo di poter diciamo descrivere in questo modo l'essenza di quel del suo gesto ipocrita, un comportamento in cui si fa finta di ignorare il significato tristemente, tragicamente simbolico che da anni viene riconosciuto a quella fermata. Io sono stato eletto l'anno scorso, a maggio scorso ho fatto la mia prima processione, io non sono nativo di Castellammare, non sapevo, non mi spiegai il perché di quella fermata, certo. Quando mi fu detto dopo quella fermata andai su tutte le furie, perché la processione di San Catello si fa due volte all'anno, il santo patrono, una volta a gennaio non mi sono fatto cogliere di sorpresa di quest'anno e ho costretto fisicamente la processione a non fermarsi sotto il balcone. Ecco, nonostante questo purtroppo... Evidentemente qualcuno si è organizzato quest'anno, ha preso coraggio in occasione di questo evento e mi ha opposto un rifiuto di fronte al mio nuovo ordine di non certo. E da lì però la cosa brutta è che il vescovo non mi ha sostenuto, non mi ha seguito, evidentemente o per pigrizia o per assuefazione o peggio ha ritenuto di non far prevalere sbagliando l'aspetto simbolico del fermarsi e del non fermarsi rispetto a una inesistente peraltro tradizione, perché la processione non si ferma tradizionalmente ovviamente sotto la casa del camorrista, ma al più davanti a una chiesetta, quella di Porto Salvo, che sta circa 300 metri più e oltretutto chiusa da oltre un anno. Io ringrazio Bobbio, sindaco di Castellammare di Stabia, per la sua splendida testimonianza. Dico al vescovo Monsignor Felice Cece che i nostri microfoni ovviamente sono sempre aperti se lui lo desidera. Ringrazio Fabio Cantadori in regia e Laura Fagin in studio. Roberto Calullo vi augura una buona giornata.